Benvenuti. Che bello, mi arriva la notifica. Started recording on air. Benvenuti, episodio 168. Con me ci sono Jacopo e Andrea. Hello. Hello. E parliamo di un film di David Leitch del 2022. Che in realtà, onestamente, stavo pensando dove potresti vederlo se non lo guardi. Sono modi di va bene, taglieremo questo pezzo. Allora, parliamo di un film appunto nuovo, adattamento cinematografico di un romanzo di Kotaro Isaka, che si chiama I sette killer dello Shinkansen. Tra l'altro lui è un scrittore di manga, non so quanto famoso perché non leggo manga, però insomma se lo conoscete benvenga. E lui è famoso per scrivere dei thriller tipo Quentin Tarantino o cose del genere. In effetti Bullet Train un po' toccia il pane in questa roba, toccia la trama in questa roba. Andiamo con ordine. Il film è diventato famoso subito da noi, i trailer, perché non lo so in realtà perché, ma penso sia perché Brad Pitt ritorna a fare un po' un ruolo. Da quant'è che non faceva un ruolo tipo protagonista, la sua solita Ocean's Eleven? Da un bel po' in realtà. Oddio. In realtà ha fatto C'era una volta Hollywood, che però è tipo è un altro tipo di film. Ma tu intendi, cioè, da quanto tempo non fa un film così scemo? Esatto, c'è Stupidino, in cui lui fa il tizio simpatico protagonista, quello che l'ha reso più o meno famoso, cioè che ha reso famoso Ocean's Eleven di fatto. Ocean's Eleven. Esatto, sì, World War Z. E in effetti qua il suo ruolo è quello, cioè è quello di Ocean's Eleven appunto. E tra l'altro, perché sto parlando così tanto di Ocean's Eleven? Perché il regista David Leitch è uno stuntman ed è famoso per essere stato lo stuntman di Brad Pitt in parecchi film, tra cui appunto Ocean's Eleven, Troy, Spy Game, eccetera eccetera. E come regista invece ha già fatto dei film parecchio diciamo nella scia di questo, cioè thriller un minimo simpatici, un minimo insomma che ti tendono a intrattenere. Quando ha fatto Atomica Bionda, poi è accreditato a lui Deadpool 2 e Fast and Furious Hobbs & Shaw. Che non ho visto, forse. No, però insomma, vabbè. Tra l'altro, più, due dove c'è anche Brad Pitt, per tipo 4 film. C'è un cameo di Brad. Vero. Sì, però... e qua c'è un cameo di Ryan Reynolds. Esatto, sono scambiati. Allora, da cosa cominciamo? Intanto gli attori sono tutti di un certo spessore, perché oltre a Brad Pitt abbiamo, a parte Joey King, che è una millennials, non so per cosa, cioè ha fatto un botto di roba in realtà, non so per cosa è famosa lei, oltre a far la modella, comunque ha sempre lavorato nel cinema anche da giovanissima, che qua fa un ruolo che secondo me è tipo il peggiore di tutti i ruoli, ma vabbè, sono pareri, poi magari ne parleremo. C'è Aaron Taylor-Johnson, che insieme a Brian Tyree Henry fanno tipo la coppia più bella del film. Madonna. Più bella del mondo, vorrei dire. Esatto. E dopodiché di attori famosi in realtà ce ne sono, nel senso che c'è anche il vecchio, è abbastanza famoso, Hiroyuki Sanada. A lui sono accreditati un botto di film. Giapponese. Sì, è proprio caratterista. E qua in realtà ha una particina abbastanza grossa. E dopodiché c'è ovviamente Michael Shannon, che ha il cattivo più brutto e più stupido di tutti i cattivi che abbiamo mai visto, e in questo caso Michael Shannon interpreta un russo, è lui, no? La morte bianca. Sì. Ok. Ora, vabbè, io in realtà mi aspettavo qualcun altro, non so voi. Di russi? Oh, Andrea, chi ti aspettavi al posto di Michael Shannon? Cioè, il posto suo come attore, dici? Non so, solo a me è venuto in mente Sean Atkins, che poteva fare un russo. Oddio, sì, però mi sarei pensato troppo. Sì, in realtà, vabbè, non è così male, sì. Non è che abbia sta gran parte, nel senso, cioè non è che debba interpretare chissà cosa. E poi ci sono ancora altri attori famosi, in realtà, perché c'è, vabbè, c'è un cantante famoso e... cioè famoso, relativamente famoso, magari non in Italia, che è Bad Bunny, che grazie a Dio ha un ruolo molto piccolo, però c'è Sandra Bullock, che fa tipo 10 minuti dal vivo e... no, 2 minuti dal vivo e tutto il resto in voce registrata da casa mentre è a casa sua. Zazie Beetz, che anche lei fa quei 10 minuti scarsi di coso. C'è Masioka, che io non vedevo da Heroes. Esatto! Oh, è vero. Appena l'ho visto in faccia... ma Hero, oddio! C'era Channing Tatum. Esatto, questi sono due cameo bellissimi. Questo film è bello solo per i cameo. E c'è Channing Tatum che fa il tizio... il passeggero omosessuale. ovviamente Ryan Reynolds che fa lo stronzo. Che però è tipo in un'immagine sola. Però una cosa che ho notato anche è che Brian Tyree Henry e Zazie Beetz sono entrambi in Atlanta. Cioè sono entrambi anche nel telefilm quello di Donald Glover. Mm. E c'è una scena con Karen, quella che fa la femmina, diciamo, in The Boys. Ah. La femmina è proprio il nome del personaggio, se qualcuno non ha sentito The Boys è l'unica femmina, è l'unica donna in tutta la serie. E quindi in realtà anche le persone che non se... cioè, non lo so, in questo film qualsiasi persona è in quel treno è tipo o un attore famosissimo oppure un attore visto già in altre serie, non lo so. Sì, diciamo che dal punto di vista di casting questo film secondo me ha un unico difetto, ovvero che il casting è evidentemente una nicchia di amici, che è anche un pregio, però vuol dire anche che, cioè, è fatto una roba fatta in casa, perché di fatto sono gli stessi attori che hanno fatto tra di loro gli ultimi film degli ultimi tipo 3 anni. Perché appunto Ryan Reynolds era, cioè, aveva preso Brad Pitt per il cameo di Deadpool, e Sandra Bullock e Coso e Channing Tatum erano in The Lost City con Brad Pitt. Ah, è vero? E quell'altro è il... cioè sono un po' tutti amiconi, che va, sì, benissimo. Anche quel film, come si chiama? Free Guy? C'era Channing Tatum. Esatto. Va benissimo, non c'è niente di male. È l'unico difetto del casting, cioè sono un po' tutti amici. Poi per l'amor di Dio, magari lavorano benissimo insieme. E va bene. C'era anche il figlio di Morte Bianca, che non mi ricordavo dove l'avevo visto, ci ho messo un attimo, poi mi sono ricordato che faceva Percy. Logan Lerman. Davvero? Percy Jackson. Che tra l'altro c'è adesso messo... avete visto che lo rifà la Disney. Ah sì? Interessante. Non so se è una serie o un film, ma è proprio un reboot. Budget è più basso di quello che pensavo. Il budget è basso e il film è andato molto bene, nel senso che ha incassato un botto di soldi. E poi le critiche, mi diceva Andrea prima, che sono abbastanza scarse. Però vabbè. Ah, parliamo un attimo della trama, poi mi dite che cosa ne pensate. Vabbè, la trama in realtà non c'è molto da dire, nel senso che non nel senso che non c'è trama, ma nel senso che è come altri film di cui abbiamo parlato, che tutte le trame sono, diciamo, connesse, e quindi è molto complicato non fare spoiler. E, diciamo che Brad Pitt interpreta un... vabbè, il film si apre con un incontro tra padre e figlio all'ospedale, e il nipote del personaggio più anziano, appunto, è in coma in ospedale e c'è un dialogo tra i due. Dopodiché la scena si sposta, diciamo, la camera si sposta a Tokyo e c'è un ex assassino interpretato da Brad Pitt che il cui nome è solo il nome, tra virgolette, nome d'arte, Ladybug, e che viene ingaggiato per un incarico, e l'incarico è su un treno, il bullet train, su uno di quei treni ad alta velocità giapponesi. Praticamente l'incarico è di entrare, recuperare una valigetta e uscire. E poi scoprirà sul treno che in realtà questa roba è complicata perché ci sono altre persone coinvolte e quindi niente, ci si picchia, ci si spara, si fanno dialoghi alla Tarantino, eccetera, eccetera. E ci sono molti flashback su cosa era successo prima. Diciamo, io l'ho visto molto come cioè sembra un po' The Snatch, come, diciamo, è vero, presentazioni, e sembra anche un po' Sette Psicopatici come idea, diciamo, diciamo come sono intrecciate le trame. Anche The Snatch in realtà erano abbastanza intrecciate, esatto. E niente, io ho preso degli appunti. Vabbè, intanto è interessante perché è un film occidentale, ma in realtà è un film giapponese, nel senso che è molto giapponese, sia perché è tratto da un'opera giapponese, sia perché è proprio come se fosse un manga, cioè rimane l'impostazione da manga giapponese. E quindi non è una marchetta come potrebbe sembrare al pubblico asiatico, ma è proprio... è così la storia. Volete dire qualcosa voi? Tu avete come vi è piaciuto, non vi è piaciuto, bello, brutto? Ma a me è divertito molto, devo dire, mi è piaciuto abbastanza. Anche a me ha dato un sacco le vibes di Guy Ritchie, un pochino... questo ritmo alla Guy Ritchie un pochino. Mm-hmm. Non avevo visto altri film suoi, mi pare, a parte Deadpool 2, e poi il ritmo effettivamente ce l'ha un po' così. Però, no, non lo so, mi è piaciuto un sacco, personaggi deliranti, i gemelli mi hanno steso. Tu hai detto prima che ti ha fatto schifo, mi pare, Prince. Sì, a me sono piaciuti tutti i personaggi, non mi è piaciuto molto la tizia. Invece è piaciuta, ma nel senso che, cioè, mi è piaciuta perché l'ho odiata, esatto. Da appena l'ho vista fino alla fine l'ho odiata a morte, quindi ha fatto bene il suo ruolo, secondo me. Era quello esatto. Sì, no, ma è che non mi... cioè, nel senso, all'inizio non si capiscono bene le motivazioni e quindi sembra semplicemente psicopatica. Perché invece gli altri hanno le motivazioni, anche se sono se non sono chiare, un'idea te la puoi fare. Invece lei sembra solo pazza. No. E quindi non mi è piaciuta molto. E lo Jacopo che dice? No, mi è piaciuto, diciamo, molto godibile. Mi ricorda anche a me un po' quei film d'azione, non so, anni 2000, 2010. Un po' alla Garicci, ma anche un po' alla... sì, Sette Psicopatici, cose così. Però, nel senso... cioè, a livello di trama, a livello di personaggi... tutti molto strani, tutti molto così, cioè molto cartoneschi, manga appunto. Mm-hmm. E anche alcune scene carine a livello di, non so, di coreografia, eccetera. Però secondo me si poteva fare un po' di più. Cioè a livello di azione, di come è stata girata e tutto... Non so qual è stato il limite, sinceramente. Non so se avevano limiti di budget, nel senso di tempo con gli attori, di addestramento, di non lo so, cioè, c'è qualcosa che non mi ha convinto, anche a livello di effetti speciali. È come se avessero fatto qualcosa di leggermente troppo ambizioso, forse. Però ci sta, cioè, nel senso, è un film leggero, cioè, appunto, vecchio stile in un certo senso come azione, non super impostato come si fanno oggi, post John Wick, diciamo. Paradossalmente, visto esatto. Che lui è uno di quelli che l'ha fatto, quindi. Sì, in realtà lui è molto esperto di scene d'azione, nel senso che facendo lo stuntman e facendo, cioè essendo coinvolta in tutti quei processi, quei progetti, è bravo. E qua, boh, si vede che era quello che voleva fare, secondo me. Sì, no, infatti, cioè, se li vuole fare, li fa. Cioè, li fa anche bene le scene. Boh, ma non lo so. Vabbè, scene d'azione dentro il 3 a me sono piaciute. Magari, cioè, gli effetti speciali sono un po'... Sì, non so il massimo, quelle, cioè le scene soprattutto fuori dal treno, cioè quando si schianta, vabbè, spoiler, si schianta il treno, è abbastanza bruttina quella scena, però boh, non so, le scene di azione all'interno del treno mi sono piaciute. Secondo me è riuscito molto bene a concatenare le cose, cioè il fatto che comunque lui abbia zone, diciamo, spaziali del treno diverse. È riuscito a concatenare le variazioni e non fare flashback all'interno dello stesso treno. Secondo me cioè, funziona molto bene. Anche le scene d'azione finali, l'ultima battaglia che sono tutti messi insieme, è bravo a cambiare scene e fare tutti gli eventi collegati. E poi vabbè, secondo me il suo limite è quello. Secondo me lui ha voluto farlo un po' in chiave comunque comedy. O Sì. black comedy comunque. E quindi cioè, è quello, cioè non è serio Sì, perché non no, è certo. serio. No, ci sono un po' di colpi di genio che non avevo mai visto, tipo quello che dicevo prima Andrea, cioè gli sgherri del tipo che litigano su chi deve aprire la valigetta, Sì, quella è geniale, quella scena è che non è che spettacolare. litigano tipo aprila tu come un cartone animato, dicono proprio ma perché ce la dobbiamo aprire noi visto Esatto. che non può Ci aprirla metti lui. una bomba dentro, Esatto. dicono. Cioè, che spettacolo. Anche la già mi ha fatto ridere in quella scena quando gli paga la bottiglietta d'acqua si bicchiera. Non so perché. Ah, sì, che chiede al tipo di pagare Di perché dice pagargli no. Sì, l'acqua. sì, sì. Sì. Ma anche la scena del veleno, cioè dell'antidoto al veleno, Madonna, quella eccetera. scena quanto è bella. Che si fissano cioè ha delle scene molto riuscite. Poi vabbè, ok, non è probabilmente poteva fare di più, non lo so, però vabbè, il budget non è neanche così assurdo considerando chi hanno dovuto pagare per farlo. Non so Mi ha quanto. fatto un po' incazzare la scena del serpente, però capisco, diciamo. Qua, quella quando morde. Sì, cioè, tu vedi sto serpente, tipo appunto la pistola di... come cazzo si chiama? Di Chekhov, quello lì. Eh sì, Serpente infatti ti di mette un po' Chekhov. d'ansia. E invece poi serve solo a far uscire il tizio dalla carrozza per un attimo. Quello Ah, ci sì, sta. ok. Sì, ti mette tutta l'ansia all'inizio e poi non sai un cazzo. Eh sì, in effetti non ci avevo pensato, quello è un po'. Ma ripeto, cioè, Beh, sto magari è film... voluto anche quello. Eh? Magari è voluto anche quello, cioè ti mette No, no, un po'. sicuramente, No, sicuramente. però si poteva fare di più effettivamente. Ma invece tutta la sega su Fortuna Sfortuna Vabbè, quella è tipica, cioè è molto giapponese. è molto, sì, ma è tipica anche di sti film, cioè. Il fatto che lui si chiami Ladybug e che lui pensa di essere sfortunato, in realtà tipo solo botte di culo tutto il film. Esatto. La gente intorno a Madonna, lui tutto muore per da sola. flashback. Esatto, tutto per flashback del tizio, del matrimonio, no? Tutta la sua vita, Esatto. così. E poi entra e muore e si uccide da solo. Che bello. Ah, è bello, Cioè, eh. queste cose non lo so, cioè, mi piace. Molto, molto Sì, carino. comunque secondo me in generale appunto è un film molto godibile, è un film che se vi mancavano un po' quelle cose, un po' di dialoghi alla Tarantino scialbi, è un po' di roba alla Guy Ritchie, secondo me è un buon film, rende onore al genere molto specifico in cui è. Sì, non bisogna guardarci troppo, cioè, non puoi analizzarlo troppo. Ah, no, è una puttanata. Sì, è una puttanata incredibile, però. Grande omaggio. Mi stupisce a... che... Come? No, grande omaggio a Thomas il trenino. Ah. È vero. Mi stupisce che abbia preso così, cioè, così tante... recensioni negative. Sì, boh. Non lo so. Cioè, più che altro, come fai a incazzarti con un film del genere? Cioè, lo si ama e basta, non è che... Infatti. Poi, oh, ah, ecco cosa volevo dire. Voglio lamentarmi un attimo. Di recente abbiamo visto Nice Guys, mm-hmm, giusto? Per il podcast, poi, mi sa. Sì. C'è una cosa che è in comune con questo film, e non è solamente un po', diciamo, l'umorismo, il genere e così. Secondo me... il mondo è ingiusto, la vita è ingiusta, anche perché Brad Pitt e Ryan Gosling non dovrebbero essere così divertenti, secondo me. Cioè, non dovrebbero essere bravi a fare comedy. Invece, ogni volta che ho visto loro due in un ruolo comico, tipo anche in Burn After Reading, così, mi fanno collassare. Cioè... Però secondo me Ryan Gosling è molto più bravo, cioè ha un livello molto più alto di Brad Pitt. Brad Pitt... è questo personaggio che fa ridere, non è lui come attore. Cioè lui è proprio disconnesso dal personaggio e quindi fa ridere. Non lo so. Invece Ryan Gosling... dici? Non lo so. Sì, magari è più bravo Ryan Gosling, eh. Però anche lui... te lo sa vendere, il personaggio. Anche il tempismo, le cose. Non lo so. Agisce come pensare un film dove fa ridere Brad Pitt. A me fa ridere, cioè... No, Brad Pitt ha questo personaggio, ma l'ha fatto così. Cioè Ocean's Eleven è così. Più o meno. Burn After Reading no, sicuramente no. Non l'ho visto. Vabbè, anche altri film tipo, aspetta, Snatch, altri no, film dove fa ridere. Bastardi senza gloria. Senza gloria, è vero. Vedi? Cioè, porca puttana! Brad Pitt, pezzo di merda. Però sì, Ryan Gosling fa ridere di più. Cioè, già solamente Nice Guys... No, io più che fa ridere di più volevo dire che, cioè, sa fare anche roba seria. Cioè, personaggi veri, personaggi che ti fanno credere che sia un bravo attore. Invece Brad Pitt, onestamente, adesso io non ho visto quello di Tarantino, in cui magari è incredibile. Anch'io non ho... c'era una volta... Però, cioè, non è che abbia mai visto Brad Pitt... Cioè, ha sempre quella sorta di supponenza del tipo, sono superiore e quindi ti faccio ridere perché sono un po' sarcastico e supponentino. Ma non l'ho mai visto serio. Sì, ho capito. Cioè anche in Seven alla fine non è che sia, cioè è un film tragico tra virgolette, ma lui non è che sia l'attore che... Oh, non lo so, cioè sì, magari non è bravo, ma cioè comunque riesce nell'intento, non so, la porta a casa. Anzi. Sì, la porta a casa sicuramente, certo. No, ma in Fight Club per esempio lui in effetti ha quel, cioè comunque porta a casa il film insieme a coso lì, come cazzo si chiama? Edward Norton. Ma lui ha vinto qualcosa? Che... sì. Brad Pitt? No. Boh. No. Non credo. Ha vinto dei premi? Ah, sì. Due Oscar. Due Oscar. Dove ne ha vinti i due Oscar? Ma sicuramente per... C'era una volta Hollywood e 12 anni schiavo. 12 anni schiavo, mamma mia. Oscar bait proprio. Cioè, tipo, ma io me lo ricordo per tipo 5 minuti in quel film. Sì. Scam. Ma non l'ha vinto lui, mi sa, ha vinto il film. Mi sembra strano, però vabbè. Mi sa che l'ha vinto il film. Lo contano lì. Vabbè, dai. Dice come miglior film a Brad Pitt, Did Garner e Jeremy Kleiner, Steve McQueen e sti cazzi. Ah, non, ah sì, non ha mai vinto un pro da miglior attore protagonista. Ah no. Ha vinto da... è stato candidato tipo il caso Benjamin, il curioso caso di Benjamin Button e L'arte di vincere. No, vabbè, cioè, per l'amor di Dio, non c'è niente, cioè, non è che volessi dire che è un pessimo attore, cioè, è bravo, però, ecco, Ryan Gosling mi sa vendere meglio, non lo so, mi piace di più, diciamo. Io ho capito. Ci sta. Va bene. Palla, si vuole sposare... Perché Young Hercules è un'altra... Oh, cioè, no. Serie è vero, è vero. Che ricacciato. Dio, ma non avete un pochino di... Non lo sentite questo friccichio nell'aria che sta arrivando il film di Barbie con Ryan Gosling dentro? Ecco, bravo, oh, vedi? No. Era lì che... Quando esce? Non si sa. Non lo so. No, però c'è un certo, capito, un certo odorino. Io non vedo l'ora. Deve essere una bella trecciata o un film il film della vita. Tanto ringraziate i rumori per il mio vicino che ha deciso di spostare, traslocare sopra di me in questo momento. E basta. Io, se non avete altro da aggiungere, mi fermerei anche qui. Grazie di averci seguito. E noi vi consigliamo di andare a vedere questo film, anche se non so dove potete trovarlo. E ops. E noi ci vediamo sabato prossimo con un film della Marvel. Ciao. Ciao. Ciao.